Oh, ma insomma, boh, dove avrei da stabilire, no? Al tuo di... No, di fa un po' di grog, però buono. Mm. Sì, beh, certo, non è... Posso dire? Alta gamma, però. Cioè, sai che può scrocchiare da stabilire, no? Mm. Bello, faccio... È molto croccante. Facciamo sentire la birra. Vabbè, no, che dire, visto che tanto... Allora, spieghiamo a chi ci sta ascoltando che la puntata di oggi va così, completamente a sgranocchiare. Quindi, se avete già gli snack, munitevi di snack, perché scrocchierete con noi. Vi diamo il tempo di una canzone per comprare i vostri snack e venire ad ascoltare Ottimisti genericamente mortificati qui su Rantem Radio, la Radio Geek. Venghino, venghino, si rivendino. E ci vediamo, ci ascoltiamo tra un paio di minuti. Allora facciamo l'appello. Io ci sono. Ci sono? Ci sono? Ci sono. Come ci sei? Oh, ecco, oh, c'è anche Marco. Ciao Marco. Ciao. E Simone, grandi notizie stasera, grandi notizie. Grandissime. No, adesso abbiamo quella breaking news che hai appena letto in fuori onda, perché è da dare. Io ho fatto l'altro, sì. Bravo, preparatela. Poi abbiamo Simone. Simone. Buonasera. Simone. Pizzi. Ciao, Simone. Che hai fatto alla voce? Ho fatto un trapianto alle corde vocali. Perché? Scusa Marco, perché... puoi controllare se sotto gioielli di famiglia ci sono ancora tutti e due? Perché è diventato un po' meno baritono. Ne è spuntato un altro. La terza palla. Sì, ne ho tre adesso. Vabbè, allora sono flipper. Oh, vabbè ragazzi, bentrovati, benvenuti a questa puntata estemporaneissima di OGM, devo dire la verità. Tant'è che abbiamo rivoluzionato scaletta, sigle, foto, tutto quanto, perché siamo talmente emozionati dal keynote. Che chi? Not. Che cosa... Cioè, chi beve il chinotto, noi invece cosa beviamo? Birra Edelmar Steak Style. Che è il nostro nuovo sponsor, perché la carta da culo non ci bastava. Veramente di merda comprata ad un... con i soldi di Cusella, diciamo. La più economica del discount. Che però... Scusate che non è qui in ufficio con noi, però c'è l'altro. L'ha portata Simone Pizzi, la birra di Cusella, no? Edelmeister, ed è una birra fottutamente buona per essere una birra che è costata meno di un euro al chilo. Al litro. Al litro, sì. È grog praticamente. Sì, è buono. Va bene, allora facciamo una cosa. Siccome siamo personcine serie, ci piacciono le formalità, noi adesso intanto mandiamo la sigla e dopodiché cominciamo a sprombattuto. Va bene? Va bene. Va bene. Runtime Radio presenta Ottimisti genericamente mortificati. Allora io ci riprovo. Simone, sì, Simone, no, sento che la voce ti sta tornando nelle cose giuste. Un po' di... Sì, dopo un rutto e un sorso di birra più o meno sta tornando. No, c'è un certo strano. No, ancora... ma scusa, ma sono sempre io che c'è di strano. Scusa, facciamo una prova, un test. Assedia, dici un po' assedia. Assedia. No, assediare, sedia. Sedia. Chitara. No. Qui taro. Tara. Carozza. Rigatoni con la pagliata. No. Cosa che... L'hai pecciato un'altra volta, Gualdi? Io non l'ho toccato stavolta. Secondo me è stato un nuovo aggiornamento, perché io proprio... Ah beh, ma oggi era il patch Tuesday di Microsoft, cioè ieri in realtà di Windows. Ha fatto la mensile. Ah, ma sai che sono tre giorni che sto installando la stessa patch. Forse stasera ha finito, però non posso. Io Pinocchio. Comunque no, c'è questa adesso. Basta con queste cose, sono veramente molto brutte e povere. Amici di Arc, buonasera. Facciamo finta che cominciamo adesso. Andiamo subito. Questa bellissima notizia. Breaking news. La sono letta. In realtà è delle 18:57, non è proprio breaking, ma quasi. Insomma, lo andiamo a leggere direttamente dal sito di Every Eye, cioè di tutti gli occhi. Sì, uno di questi tutto, di ogni occhio, sì. Tutto occhio. Noi, sì. È tutto occhio. Allora, che praticamente ci viene a dire che Harry Cavill, che voi tutti conoscerete come l'uomo d'acciaio, oppure l'uomo col baffo finto, lascia il ruolo di Superman. E pare che la Warner voglia resettare stranamente l'universo DC, quello almeno cinematografico. Beh, d'altra parte, voglio dire, Posso dire che siete colpiti da questa cosa? No. Guarda, soffro come un bambino morto. Non dormirete stanotte. No, guarda, ma più che altro questa cosa poteva succedere a Ben Affleck. Tu lo sai come la penso, no? Ci vuole Ben Affleck per fare qualche cosa. Ci vuole Ben Affleck per resettare. Comunque andiamo a leggere la notizia, perché è pregna di cose che veramente ti fanno, ti riempire il cuore. Allora, scosso di casa DC, The Hollywood Reporter, che è un sito che diciamo abbastanza affidabile, ha svelato. E dillo, perché mi hai un po' emozionato. Un sito. No, no, no, il nome del sito. Ah, The Hollywood Reporter. Ha svelato, quindi è un rumor, ma potrebbe essere vero. Ha svelato che l'attore Henry Cavill è pronto ad abbandonare il ruolo di Superman. Ricordiamo che Henry Cavill sembrerebbe che abbia firmato per The Witcher. No, no, non sembrerebbe, sarà, è stato annunciato ufficialmente, sarà Geralt. Quindi. Geralt. Comunque, appunto, secondo questo report, la Warner Bros. Stava contrattando con Henry Cavill una sua potenziale partecipazione al prossimo film di Shazam. Avete presente Shazam? Sì, quello della musica. Esatto. Quello. Questo film è ne arriva un aprile, ma le trattative sono completamente sfumate. Lo studio è intenzionato a rompere totalmente i rapporti con l'attore e addirittura lo studio vorrebbe puntare totalmente, incredibile, udite udite, tutto sulla, sulla pellicola di incentrato su Supergirl. Spettacolo. Io capisco la topa, no? La capisco sempre. Però, al di là del fatto che c'è Wonder Woman che si potrebbe incazzare, ma poi è sempre stato un personaggio molto secondario. È come se mi dici che baso tutto il continuum Marvel dell'MCU su Jessica Jones. No, su She-Hulk anche volendo. Ma il film di Supergirl è attualmente in sviluppo e secondo il THR che abbiamo detto prima richiederà un Superman ancora più giovane. E chi sarà Supergirl? Henry Cavill. Enrichetta Cavill. Sì. Allora, dicono questo: Superman è come James Bond. Dopo un certo numero di film devi cambiare attore. Cioè. Anche perché di solito quelli dopo un certo numero di film devi cambiare altri film, cioè farne altri. Un certo guarda, numero che cosa vuol dire? Un due. Certo numero. Cioè, due, in realtà film. Io ho fatto Superman in tre. Sì. Tre. Ho fatto Man of Steel, Justice League e in mezzo ho fatto Superman se cazzo Dawn Justice che è veramente una galattica. Superman si è incazzato con Batman. Superman è ancora incazzato con Batman, ma poi fa la pace. E Superman ancora non ha conosciuto Batman e non si incazza. Questi sono i tre film. E poi Superman ha visto Wonder Woman, gli è venuta in erezione nelle mutande che stupidamente porta fuori dai calzoni. No, che ha fatto scoppiare più i bottoni. Ah, vero, l'anno corretto. È vero, siamo nell'anno 2000, quindi non ci sono più. Allora, però, andiamo sempre con ordine, facciamo le formalità della serata. Salutiamo gli amici che ci ascoltano in diretta. Alcuni di loro, immagino, reduci come Davide Gatti dalla diretta precedente in cui hanno parlato delle meravigliose novità dell'anno scorso del keynote di Apple, perché io credo di aver visto una replica, poi mi sapranno dire. C'è Peppe Rizzard e c'è Pier G. Io li saluto tutti, insieme anche agli altri che non si sono palesati in chat. Come avrete capito, è una formazione un po' particolare oggi, perché Simone è scesa un po' la voce. Beh, sì. Un po'. Tra l'altro, no, mi è salita più che. Mi è salita, sì. Gli è venuto mi è salito nordico. Su a nord. Faccia, com'era, Fantozzi? Mi raccomando, faccia la voce camuffata. Com'era la battuta di Filini? Faccia la voce. Faccia l'accento. Pronti, come diceva, faccia l'accento milanese. Svedese. Pronti, uguale se sta. Pronti, Fantocci e lei. È così. Oh, ci diceva tra l'altro Virgi, proprio parlando di questa notiziona su Henry Cavill, che a quanto pare, insomma, non sarà più Superman, no? Che dice, gli conviene resettare il continuum, perché probabilmente cioè, dopo troppo, secondo lui gli ultimi film della Justice League, immagino tutto quel continuum, si prendono troppo sul serio. Ora io magari. Non lo so, nel senso, io so che nei fumetti l'ambientazione supereroistica DC è molto più cupa e molto più seriosa di quella Marvel, e su questo non ci piove, ma i film che ho visto io a me sembrano tutte delle scimmiottature dei corrispettivi di Marvel, sono arrivati dopo e sono arrivati male, secondo me. Poi ognuno ha i suoi gusti. Peccato, perché Lanterna Verde mi va. Ed ecco anche Lobby Frontali. Ciao Lobby, no, non ti sei perso niente, abbiamo appena cominciato a spolpare. Lanterna Verde aveva un futuro luminoso. Solo, degli snack ti sei perso, tra l'altro buonissimi, comprati al tuo D. Al tuo D qui vicino. Sempre prega lì. Il tuo D che trovi la birra giusta. Comunque, in ogni caso, è una delle tante notizie che girano su internet, come l'ultima, perché abbiamo citato prima Harry Cavill che farà Geralt di Rivia, e pare che Ciri, cioè la protagonista, l'assistente, comunque, l'assistente virtuale di Geralt, esatto, mm-hmm, che in realtà poi tra l'altro nei libri occupa anche un ruolo abbastanza preponderante, non sarà più una bianca caucasica ma una ragazza di colore. Beh, l'est Europa da cui vengono le idee originali è pieno così de... Esatto, perché sembra che l'autrice abbia si sia piegata al BAME. Sapete che cos'è il BAME? Il BAME? BAME? BAME, no. BAME è Black, Asian e minoranze etniche, però non so perché lo scrivono in italiano. Minoranze etniche su questo. Però vabbè, di caso. Che poi, scusa, Netflix poteva girare questa rottura di scatole semplicemente rendendo la produzione non americana. O semplicemente mettendo un altro attore o un'altra attrice nera che non c'entra un cazzo magari col cast. Dovevano provarlo. Invece no, hanno scelto questa cosa, tra l'altro cambiando completamente anche, immagino, le origini di Siri. Pazienza. Vabbè, oh. Cominciamo male. Se Scarlett Johansson ha potuto fare Motoko Kusanagi, tutto è lecito. Però potrebbero anche sbiancarla con un effetto... Tipo, c'è Dobby che nei libri Siri è praticamente la vera protagonista. No, infatti, mettono i baffi finti a Geralt che non c'è i baffi, che sarebbe Harry Cavill, e la allora, attenzione, Siri bianca. Attenzione, perché abbiamo capito che a toglierli non sono bravissimi, ma a metterli, ragazzi, vediamo come andrà a metterli. A metterli, perché... sono proprio bravi. A metterli e ad impregnarli anche, molto bravi. Ma quindi cosa sarà? Un po' un soft porno questo? Noi lo speriamo, ma non credo che... Quello di Supergirl penso proprio di sì. La ragazza d'acciaio. Io sì. Che culo d'acciaio che ha, insomma. Quella è anche un po' la ragazza di legno. La ragazza d'acciaio. Speriamo non sia anche la ragazza di legno, perché sennò quello sarebbe un po' brutto. Beh, sì, beh, anche se fosse un po' come si dice, non so, al nord da voi si dice figa di legno, perché beh, sì. Vabbè, comunque, ragazzi, in sostanza abbiamo appreso questa notizia che, come dire, ci strapperemo i capelli. Oh, non posso. Niente, mi volevo strappare i capelli stanotte alla disperazione, ma fondamentalmente provo a dirlo proprio fuori dai denti. Non me ne può fregare di meno, anzi, probabilmente sono anche contento. Però sono ancora più contento se con la scusa del reboot di questa timeline fanculizzano Ben Affleck, perché personalmente non lo trovo proprio per niente adatto. Ben Affleck, diciamo, è secondo le ultime indiscrezioni, è il reboot o no, sembra essere stato fatto fuori da Batman, perché anche il film The Batman, che doveva uscire non si sa quando, continuerà a uscire non si sa quando. Vabbè, questa è la coerenza della produzione. Dice Peppe Rizzat, ma un film su Power Girl, no, chi mi illumina su chi sia questa Power Girl? Power Girl non ce l'ho neanche io, purtroppo non sono molto esperto. Quella dei Power Rangers. Esatto. Peppe Rizzat, mentre io mangio uno snackino, ci dici chi è questa Power Girl? O devo cercarla su Hasler per capirlo? Che è su Hasler? Sì, no, penso magari un mignon, cioè magari non lo so. Dice intanto Reggie, basta che non facciano reboot stile Star Trek. Anche là, tra l'altro, avete saputo che Tarantino è ancora impredicato per fare uno spin-off da, quindi un film in qualche modo autoconclusivo dedicato a Star Trek. Ha chiesto che abbia il rating Peggy 18, quindi vuole fare proprio un bagno di sangue di tutine rosse. Un bagno di sangue viola e tutine rosse. Beh, sta, ma nel senso che non puoi vederlo se hai più di 18 anni? In quel senso? Insomma, no, puoi vederlo, cioè puoi vederlo solo se hai 18 anni. O devi vederlo per 18 anni consecutivi? Devi vederlo per 18 anni consecutivi, forse. No, è che i guardi faranno riassunto radiofonico che dura 18 ore. Ah, ecco, giusto. Per un giusto. Film che dura un'ora e un quarto. Ma scusa, dice Peppe Rizzat un suggerimento su Power Girl, dice è criptoniana. Allora è Supergirl. Se no c'è un'altra che non conosco. Beh, sì, probabilmente è una versione minore. Con steroidi. Dovrebbero fare un film a Marvel dedicato all'eroina con le stampelle, adesso non ricordo come si chiama, ma sicuramente dalla chat ce lo diranno. Esiste una supereroina Marvel che purtroppo è paraplegica e quindi va in giro con le stampelle. In realtà per un tot di anni anche Tony Stark è stato paraplegico, ho seguito di un incidente si riesce a tenere in piedi solo quando mette l'armatura di Iron Man. Grazie al cazzo, direi. Comunque, no, nel senso che non è una novità, ne beh, anche, ma sì, ma questa va a giro con le, proprio con le stampelle, cioè proprio non può camminare, quindi se lei combatte con le stampelle, cioè però con la Storpia parte girl. Inferiore. Allora, Pepe Lizard. Vabbè, allora, Pepe Lizard, vedi che vuole fare l'erudito, ci dice, ci ha mandato il lemma Wikipedia di questa Power Girl, il cui nome criptoniano è Kara Zor-El, e quindi è la cugina, è Kara, la cugina di, è Supergirl che evidentemente fa il power up. Eh sì. Caro fratello, Kara Zor-El. Giustamente. Siamo qui. Ah, qua, perché qua dice, sebbene siano biologicamente la stessa persona, gli sceneggiatori vogliono enfatizzare la sua maturità rispetto a Supergirl con un carattere più equilibrato, uno stile di combattimento più aggressivo, una diversa identità segreta. Vabbè, si è fatta gli steroidi, appunto. La super fregna definitiva. Insomma, vabbè, universo alternativo, ci dice Peppe. Vabbè, ma io dei fumetti so veramente poco, devo essere sincero. Non gli universi paralleli. Non le però qualcuno. Ragazzi, ci giungono dal passato delle notizie. Ma non è che ci potrebbero arrivare dal futuro un po' di notizie, tipo i numeri del Super Enalotto, no? Sarebbe troppo bello, ma in realtà è una rivelazione da Paul McCartney. Il famoso quinto Beatles. Esatto, quello che è morto ma è più risulta. Con i Beatles ci divertivamo con masturbazioni di gruppo e incontri sessuali celestiali. Lo sto leggendo sul Fatto Quotidiano. E quindi è bello andare anche a leggere come... Cioè, ci voleva dire la confessione di McCartney per capire che si ammazzavano dei pippe? Vabbè, gli incontri avvenivano a casa di John. Vabbè. C'era un gruppo di amici, eravamo seduti al buio, sulle sedie, e ci masturbavamo. Paul McCartney non ha piedi sulla lingua. Sul pube? Lo dovrebbero sapere. Non suoi, sicuramente. E in un'intervista al magazine GQ ha rivelato alcuni episodi piccanti del suo passato, ai tempi d'oro dei Beatles, quando per divertirsi organizzavano sessioni di autoerotismo di gruppo. Ci incoraggiavamo a vicenda, pronunciando nomi di sex symbol, come Brigitte Bardot. Poi una volta John ha fatto il nome di Winston Churchill ed è passata la fantasia a tutti. Guarda, io vado al pub, guarda. Ragazzi, funziona ciao. Meglio se vi prendete un acido. Ciao. Prendi un'altra birra, già che ci sei. Ti dico solo questa cosa, Winston Churchill. Ti è passata la voglia del pub? Sì. Comunque è bello. Ragazzi, se vi prendete gli acidi e state negli anni 60, funziona perfettamente. Vabbè ragazzi, io direi che anche questa notizia che viene da passare, qualche altra notizia fiammante, non so, potremmo fare autoerotismo dopo pronunciando nomi di sex symbol, però anzi suggeriteci dalla chat dei nomi di sex symbol da gridare ad alta voce, così almeno dopo. Marco Gualdi, femminile, preferivo Churchill così. Beh, femminile, sì. Ok, vabbè, io non ho altre cose da dire, a questo punto andiamo al pub a bere. Vabbè sì, la puntata si potrebbe chiudere qua. Io ho fatto anche un sacco di schiuma sulla birra, quindi siamo arrivati a maggior ragione porco. Siamo arrivati a disastro, ragazzi. Cioè, ma meglio di così, ma chi ve le dice queste cose se non ve le diciamo noi? Ministro Aere è nato il vitello rosso. La fine del mondo è vicina, ragazzi, questa la dobbiamo leggere. Sì. Fermi tutti, che adesso c'è i potenti mezzi del. I dati provenienti da Vodafone, ci apriamo questa. Allora, sembrerebbe qui dicevo. Oh, pensa che in questo ufficio abbiamo non una, due wifi a 100 megabit ognuno, tutta. Magari mi ci attacco. È nato il vitello rosso, appunto, come dicevamo prima, secondo il Corriere. Bello, La fine del mondo è vicino. Allora, attenzione, avviso all'umanità, riprepararsi, ovviamente. C'è questo tocco, capito, di leggerezza. Riprepariamoci alla fine del mondo. L'ultima volta sarebbe stata il 2008. No, l'ultima volta è stata tipo 3 mesi fa. Ma ogni mese deve finire il mondo. Esatto. In realtà ogni mese il mondo finisce, solo che succede quando noi non ce ne rendiamo conto. Sì. Attenzione, perché la notizia del funesto avvento è avvenuto a fine agosto. Ancora cazzeggiava, ovviamente. È stata diffusa un paio di giorni fa dal Temple Institute, che è una piccola associazione ortodossa ebraica. Ortodossa! Che ha postato anche un video su YouTube. La nascita del vitello rosso, secondo le scritture bibliche, è segno che si avvicina la possibilità di costruire il terzo tempio a Gerusalemme, dopo i due precedenti distrutti dai babilonesi e romani. Ora l'animale sarà osservato nella sua crescita per vedere se si svilupperà sano, privo di difetti e soprattutto dimostrerà solo. Senza macchia, i requisiti indispensabili per l'essere deve essere requisiti indispensabili per essere quello che la tradizione messianica vuole, ovvero la promessa di ristabilire la purezza originale del mondo, deve essere senza mani. Ma non è che c'è il sangue della mamma addosso? Io la faccio più semplice, secondo me era un manzo cover. Ma secondo me è più che altro un qualcosa di... Che lì vicino adesso a terra c'è una bomba atomica, cioè. Ma capirai, a terra gli israeliani ce l'hanno qualche chilo di bombe atomiche, sì, ma loro però le conservano bene. Certo, loro, perché loro sono amici degli americani. Quando vedono che qualcosa non funziona, le sganciano. Ah, sì, sicuro. Pensavo che la spolverassero. L'intelligenza artificiale va a caccia di extraterrestri. Io comunque aspetto la nascita del vitello dei piedi di balsa. Esatto, bravo. Però, fattore di una storia farza. Vabbè ragazzi, ma per capire, vitelli falsi. Allora, intanto, giustamente tornando al discorso dei Beatles, Robby Frontali dice: ma con tutti questi soldini che c'hanno, due donnine, no? Guarda un po', cioè, prendi John Lennon, un esempio a caso, con chi se va, con Yoko Ono, quindi forse è meglio se facevano da soli, Veramente le fai dipendere con Yoko Ono. Probabilmente no, mi faccio una pippa, cioè. Probabilmente quindi... a forza di pippa è diventato cieco. E non la vedeva tanto bene. In effetti c'aveva due ricchi fondi di bottiglia con occhiali, John Lennon, eh? Beh, allora direi che il dubbio è lecito. Vabbè, io ho finito le notizie da mio feed, quindi a questo punto sì, possiamo veramente... No, in realtà, divaghiamo un po'. Oggi parlavamo con Simone, il quale quasi come fosse, come dire, una sorta di furesto, no? Perché Simone sappiamo tutti che è quasi trasteverino doc. Però ha detto: ragazzi, quasi quasi adesso io scrivo una mia biografia e vi racconto il mio impatto con Roma. Questo impatto con Roma, come si impatta? È in macchina 70 all'ora. Ah beh, dai. Ho mancato la curva e bam, dritto contro il cartello. Ah, contro il cartello, pensavo al muro, sì. Torto, che è un classicone. No, il muro no. Quello l'avevo già sfondato la settimana prima. Vabbè, muro torto non è semplicemente un muro, è proprio una via costeggiata. È da proprio un modo di vivere. Dai Simone, dici qual è stato il tuo impatto. Allora, qualcuno potrebbe non aver capito, quindi lo spieghiamo. Allora, sì. Che io sono di Milan. Simone Cusella, qui. Io sono di Milan. Ti sei di Milan? Sono dalla Gran Milano e sono venuto qua a Roma per lavorare. Diciamoci la verità. Ovviamente per rubare il lavoro e per rubare anche le donne, perché si sa che. Vabbè. Beh sì, mi è venuto in mente di raccontare un po' qual è la mia esperienza, noi siamo tutto orecchi. Il mio punto di vista. Beh, allora, la città. Io abito in una zona periferica, okay. Quindi non certo nella pulizia, nell'ordine più totale, che di fatto è il difetto. Il centro sarebbe peggio, eh? Ma io quello che ho visto è molto più pulito di centro. Ah, appunto. Poi non lo so, vabbè. Comunque. Fa un po' strano vedere tutta sta spazzatura per strada. Cioè buttare la spazzatura, tra l'altro nei bidoni, che sono enormi, sono tantissimi, rubano un sacco di spazio alle macchine, puzzano, perché magari per diversi giorni non li prendono. Poi la gente butta robe a casaccio, mobili in mezzo al marciapiede, che boh, portarli in discarica no, o comunque farli passare a ritirare no, rimangono lì un mese. E... Ma il romano medio sarebbe anche felice di farli venire a ritirare, il problema è che non ci vengono. Boh, questo non lo so esattamente. Cioè, so che il problema della spazzatura è concreto. Però devo dire che c'è anche la gente maleducata, Quella non manca mai. Certo. Però ti posso dire che uno dei problemi di Roma, siamo arrivati al collasso infrastrutturale, perché per decenni si è governato la Carlona, non c'è più una lira, le municipalizzate non hanno un soldo. Però è anche vero che fatalità, da quando sono arrivati i 5 Stelle, che in qualche modo hanno, come dire, paventato questa sorta di intenzione di rompere uno status quo, guarda un po', sono cominciati a succedere tanti problemi, ovvero alcune municipalizzate, che ovviamente muovono miliardi di euro e muovono migliaia di posti di lavoro, hanno cominciato a, non voglio dire a sabotarsi, però il sospetto un pochino diviene, perché per quanto non facciano per esempio manutenzione all'ATAC, che in un anno abbiano preso fuoco 40 bus, il dubbio che non siano sempre guasti tecnici. Ma è un complotto. Quando lo dicevo io, complotto. Però, insomma, uno deve essere sempre poi per esempio a un certo punto c'è stata l'invasione di cinghiali a Roma, sai che, sì, quello sì, l'ho visto. Ma io ho una domanda, guardi, tu che sei un tuttologo, sei anche in punta di diritto, se io lo catturo me lo posso mangiare? Se tu lo catturi e nessuno ti vede te lo puoi mangiare. Perché se mi vedono? Perché se ti, te lo potrebbero portare via. Perché? E mangiarselo altri. Ma a quel punto l'hai visto tu, quindi glielo rubi tu e te lo mangi tu. Bisogna lottare forzatamente con chi ti vuole sottrarre il cinghiale. Ma soprattutto lo catturi vivo o morto? Preferirei catturarlo morto, perché vivo potrebbe essere ancora un po' pericoloso. Un pelino incazzoso. Beh, diciamo che teoricamente non penso che tu possa aprire il fuoco finché è capitato. Vabbè, arco e frecce come i cacciatori di una volta, quelli integri di valori, oppure a cazzotti in testa. Forse a cazzotti in testa, se tu gli dai il cazzotto in testa, però devi sempre portarlo via, perché poi tu... Perché c'è stato un sacco di ristoranti, poi alla fine sai che fanno minaccia. Ecco perché costa tanto meno qua il cibo. Il ragù di cinghiale è buonissimo. Beh, sì. Tra l'altro. Sì, scherzi a parte, è buonissimo. E vabbè, comunque invece... Però, come si dice... Se tu te vedi nessuno, papà tutto. Vabbè, sì. Il cinghiale, sì, lo lasci stare, fai cinghialozzo, due cocco e poi sulle setoline. Sulle setoline simpatiche, poi se vuoi dai. Io vuoi anche un po' di bene. Se dei gusti strani. Piacere suggerisce a martellate, però anche lì è un, diciamo, è rischioso. Sbagli il primo colpo. Ma lì ti sporchi anche. Oddio, devi darla con una certa veemenza, devi avere il martellone di Thor per... Ci vuole il macellaio di American Gods. Azzo! American Gods? Ma il macellaio di American Gods o piuttosto... il russo, no, è... ma io pensavo anche a Mario Brega come... Mario Brega sì, secondo me darebbe un cazzotto, gli sfrantumerebbe i mucosi e direbbe alzate corduto, alzate, mi hai fatto uscire, esatto. Salutiamo anche Enrico che ci ha raggiunto in diretta. Ciao Enrico, che ti sei perso? Che ti sei perso le confessioni di un americano a Roma? Ma continua alla fine, Simone. I romani, allora, continuiamo. Okay, il contesto abbiamo capito che è quello che è. Stendiamo un velo che non possiamo farci. E anche le strade terribili, vabbè. Sì, purtroppo sì. Quelle proprio terribili. Boh, i romani devono passare i cinghiali, pure tu devi capire che non puoi aspettare. Beh, sì, hai ragione. Il cinghiale, sennò se trova un po' a disagio. Hanno bisogno un po' delle strade dissestate per sentirsi a casa, in effetti, sì. Sennò si sentirebbero esclusi. Noi siamo una città cosmopolita. No, non cosmopolita. Non cosmopolita. Adoriamo l'accoglienza. Quindi per far sentire il cinghiale a casa sua facciamo le strade dissestate. Ma vai avanti, continua. Diciamo i romani. Ma i romani, devo dire, i romani non al volante mi piacciono, mi stanno piacendo. C'è molto più calore rispetto al nord. Più accoglienza, più simpatia, un po' più ci si aiuta a vicenda, ma anche nelle cose veramente più banali. Cioè, a volte mi capita di uscire da un parcheggio, roba che veramente si fa ad occhi chiusi, parcheggio larghissimo, e c'è il tizio che ferma il traffico dietro, ti dà le indicazioni, gira, vai avanti, fermati. Venga, cosa che... venga a vedere che ha combinato. Sì, cosa che sinceramente in 20 anni a Milano non è mai capitato. Questo perché tu non imprimi, non dai fiducia a quella persona. All'umanità. Ma questo tocca aiutarlo, sennò ci spacca la città. È forestiero, ci rompe e ci rovina le strade. Sì, esatto, ci rompe i camion, i bus dell'ATAC e dopo prendono fuoco. Li provati, tu sei entrato in mezzo. Una volta. Anzi, se vivo per raccontarlo, è stato stuprato, no? No, devo dire, da quel punto di vista, normale, abbastanza silenzioso, persone normali. Più che altro ho preso il Pullman 341 bis, che è quello con i mafiosi. Non ho idea. È quello che passa ovviamente sotto casa e arriva sotto il mio ufficio. Ho questa fortuna. Ma hai deciso che non lo prenderei più, perché? Il gusciatto lo prenderei. Allora, in realtà l'ho preso una volta sola, tra poco dico perché. E all'andata devo dire probabilmente mi è andata bene, perché è arrivato 5 minuti, ho aspettato 5 minuti, dopo 30 minuti, ero in ufficio, tutto bene, pullman, vabbè, mezzo scassato, anche, vabbè, ovviamente per le strade che non aiutano, cioè i vetri che... Perché sei uscito dal capolinea che era nuovo. Eh sì, era nuovo e ha perso i pezzi per strada, sì. Perché era un po' in ritardo. Tra l'altro è quello, sì. Sì. Diciamo che i mezzi risentono molto delle condizioni della strada, della manutenzione. Il ritorno ci ho messo un'ora per fare, sono 6 km e mezzo in linea. No, in macchina sono 6 km e mezzo, ovviamente il pullman farà un 8-9 km, mi dica. No, scusate, perché mi ero perso nella timeline della chat la stilettata di Pier G sul fatto è questo calore di questi romani che ti aiutano a parcheggiare a Milano non succede, perché a Milano danno per scontato che una persona sappia parcheggiare da sola. Sì, ma ecco, altra cosa, in 3 mesi mi hanno devastato mezza macchina. E tutti gli appoggini. No, uno proprio, ma parcheggio selvaggio. Io mi sono trovato piano. Mi sono trovato proprio una rigata, proprio con la chiave sulla fiancata gratuita completamente. Ah, quello è un pezzo di merda, vabbè. Così, bel 2 metri di schiavettata. Più una fiancata praticamente strisciata, specchietti, l'altra fiancata un pezzettino, cioè veramente dappertutto. No, purtroppo questa macchina dove parcheggio sotto casa, nell'unico posto che trovo nel raggio di 500 metri del vicino di casa, che si incazza ogni volta e gli spacca la macchina, che di cognome fa casaleggio. Un giocondo messaggio. No, Casa Monica. Sì. Scusa. No, questo là è da indagare questo. Sì. Anzi, aspetta. È la birra che fa effetto. Aspetta, facciamo un appello. Abbiamo i professionisti in chat, usiamoli. Lobby, ci spieghi questo lapsus freudiano di Busella che voleva dire Casa Monica e ha detto Casaleggio? Vediamo che succede, non abbiamo lanciato la domanda. Oltre al fatto che ormai ho più di mezzo litro di birra che scorre. Dove scorre? Cioè, c'hai un buco? Lì scorre dappertutto. Nel sistema linfatico. È fluido, nel cervello, dappertutto. Non so perché. No. Intanto Lobby ci ha raccontato un aneddoto di quando da giovane lavorava in ristorazione. Dice: ristorante e pizzeria che offriva meno base di cacciagione. Un amico cacciatore del proprietario che chiede il cinghiale. Ma il cinghiale era finito. Allora il cuoco, zitto, pur buco, il paraculo gli fa il maiale. Reazione del cliente: non ho mai mangiato un cinghiale così buono. Vabbè, ragazzi, perché però è un'affermazione. Sa di maiale. Sai qual è il discorso? Che è un'affermazione incontestabile. Perché va da sé che non essendo un cinghiale non ne puoi aver mai mangiato uno così buono. Non puoi aver mai mangiato un cinghiale. Ma sì, un po' come quelli che fanno tanti raffinati, poi magari non distinguono un Bonarda da... No, Lambrusco, cioè. Sì, la gente parla, ormai parla, guardano i reality show, credono, apprendono nozioni così per infusione televisiva. Beh, sì, e sì. Si sentono dei capiscioni in tutto, certo. Però sanno quanti grammi di zucchero ci vuole nella ricetta perché l'ha vista, l'ha provata. Certo, vabbè. L'ha fatto la Parodi, quindi lo so fare sì. Stavano dicendo... No, i romani. Beh, i romani stanno piacendo in ufficio. Beh, in ufficio sono sì quasi tutti romani. Ci sono anche altri, due della Liguria. Anche da fuori Roma e principalmente da Roma. E c'è un bel ambiente, devo dire. Tutti... Adesso lanciamo una bomba. Perché adesso si creerà lo scandalo. Devi prendere una posizione, Cusella. Meglio le romane o meglio le milanesi? E non parlo di cotolette. Non so se ha provato già. Ha provato? Beh, un'idea se la sarà fatta, magari non ha provato, però. Così occhio e croce direi le romane. A Pier G, tiè. Ma anche di gran lunga, direi. Attenzione, questa è proprio una presa di posizione netta, cioè. Sì. Tu sei un anti-Salvini. Ma guarda, io non lo nascondo. Milano, cioè, una bella città, servizi. Si canta, si fa nell'amore, si fa. Mezzi, No, niente, era una filastrocca da bambina. Una bella città perché pulita, con le strade belle, i mezzi che funzionano. Metro ogni 100 metri. Vabbè, scusa, il gioco di parole. Però, non mi ha mai detto un granché. Non ti ho fatto battere il cuore. No, il core è il... No, core, vedi, vedi, vedi, core. Vedi che già sta piano piano sta uscendo. Il core. Multicore? Multicore, però, sì. Però il nuovo iPhone ha la prima CPU a 7 nanometri, volevo dire. Quanti? 7 nanometri. Hanno superato i due core? Da un po'. Sì. Da mo', quando è morto Steve Jobs, no? No, credo sia un... processore. Sai che non lo so. Il processore, cioè i core ad alta capacità credo siano 6, qualcosa del genere. Però la cosa di 7 nanometri è buona per il consumo della batteria. No, sono rimasti indietro. Poi non so se c'è ancora tra di noi Davide Gatti, magari ci può confermare quanti core ha il processore Bionic dell'iPhone. Credo 6 core, però. Vabbè, comunque, insomma. Dicevamo, torniamo. Stavo dicendo, viva le romane. Sì. I mezzi fanno un po' così così. Ho provato la metro, però veramente 3-4 fermate, quindi 10 minuti scarsi. Devo dire che quella funzionava. Beh, pulita abbastanza. Poi dipende quale hai preso, perché tu devi sapere che fino a un paio d'anni fa avevamo due linee di metro, la seconda delle quali quella da Termini. Da Termini. La metro B. La B, sì. O in alternativa la B1, perché a un certo punto per un pezzettino che saranno 2 km la metro B si biforca. Vabbè, le trovate geniali degli anni recenti. Beh, ha senso, però. Senti, invece la cucina. Cucina anche qua non c'è storia romana. La cucina romana. Tutta la vita. Qual è tra i piatti tipici della cucina romana, che sa essere un po' povera, non essere composta da chissà quale complessità? Qual è il... No, quello è cinese. Qual è il piatto che finora ti è piaciuto di più? Piatto che mi è piaciuto di più, forse cacio e pepe. Ah, beh, piatto semplice. Comunque siamo, sì, sul semplice, però molto molto saporito. Sì, è facile fare una cacio e pepe come si deve, poi sembra una banalità, ma invece non è così. No, infatti l'ho mangiata qualche volta, devo dire era sempre buona. Però in alcuni posti era veramente qualcosa di speciale. Che è difficile, non tutti ci sono alcuni posti in cui varianti. Te la mantecano nella coccia di la goccia di morto, quasi. Ma soprattutto torni a proposito delle gocce di morto. Scusate, Piergi mi dice: guarda Walter, che io sono bergamasco e da noi la gente si ferma mentre parcheggia e ti bestemmia contro. Ma ci mancherebbe, io sto scherzando. Beh, non vorrei che... ecco altra cosa, a volte mi capita. Quasi parcheggia la cazzo di cane, sì, questo devo dirlo e non potete negarlo. No, ma noi siamo fieri che dovremmo negare. E devo dire, mi adatto anche io, perché sennò veramente stai lì un quarto d'ora casa ufficio, e cioè ufficio casa, e letteralmente 5 anche 10 minuti per trovare parcheggio. Sì, quindi... diciamo, 5-10 minuti sono anche pochi. Aspetta che arriva st'inverno, casa mia. 5-10 minuti, ma già nell'ultimo mese sembra adesso l'apocalisse aprono, in confronto. Adesso aprono anche le scuole superiori, Simone Caro. Scoprirai una nuova versione di Roma. Non a caso mi sto trasferendo qui a Monterotondo. No, vabbè, perché per casa è più semplice, però per il periodo, l'orario in cui vai al lavoro. Ma infatti, guarda, ad agosto io parcheggiavo. Dai, voleva vincere facile. Parcheggiavo quasi tutti i giorni sotto casa, o comunque non più di 100 metri dal cancello di casa. Adesso qualsiasi posto trovo, anche sotto sopra, anche se devo parcheggiarla su due ruote, la parcheggio, perché è impossibile, se no non arrivi più a casa. E intanto Davide Gatti, violando le etichette, scrivendo tutto in maiuscolo a mo' di urlo, ci dice: poi Pizzi mi scassa la Wallera per come parcheggio io a Milano. Ecco, tiè. Tra l'altro Simone Pizzi, che non sappiamo se è in ascolto, noi nel caso lo salutiamo. In realtà Davide, per come sì che sono in ascolto, sono qua. Per come parcheggio, per come guida, perché insomma Davide Gatti fa l'inversione a uno sui sensi unici. Comunque no, tornando un pochino su... Beh, anche a Milano qualche parcheggio... Un po' creativo. Un po' al limite, sì, creativo. Uscendo fuori dal parcheggio mi sentiamo più dell'area linguistica. Scusa, Marco, fammi dire un attimo al volo questa, perché una signora in una rotonda nella zona dove lavoravo prima l'ho beccata a fare la rotonda al contrario, che penso che le batte tutte. Che bestemmiasse. Ortacci vostri. Beh, sì, più o meno. Comunque, tornando appunto a livello linguistico, c'è qualche cosa... qualche modo di dire, perché a Roma ce ne stanno tanti modi di dire, che dice che cazzo sta dicendo, oppure come è venuta in fuori questa che cosa. Vuol dire, esatto, che vuol dire, siamo qui per tradurre dal romano a... anche per qualcosa che ti ha colpito, dice: ma io non ci avrei mai pensato a definire questa cosa in questo modo qua. Vediamo. Oddio, così su due piedi non lo so. quelle poche cose di dialetto me le avete insegnate voi e... Però vedi, la dialettica, non il dialetto, ma la dialettica romana è molto basata sulle metafore. E anche metafore a volte allegorie, quindi sulle allegorie sui paradossi e sui contrari. Non so se hai notato che a Roma, allora a Roma si usa molto appellare le persone con, tra virgolette, con una caratteristica somatica peculiare, però invertendola. Cioè, se tu sei ciccione io ti chiamo bella secco, se tu sei secco allampanato io ti chiamo bella ciccio. Se sei pettinato, no, questo non l'ho ancora sentito. È facile che ti chiamano belli capelli, capito? Tutte queste cose per enfatizzare dei difetti fisici, però sai cosa, invertendoli. Questo un pochino c'è anche da noi al nord. Cioè questo prendere in giro al contrario. Ci sono un po' di modi di dire che magari, vabbè, usando le parole nordiche, ma sono, direi, quasi uguali. Invece qualcosa che ti ha colpito? Qualcosa che mi ha colpito. È un foratino volante un giorno dal terzo piano. Qualcosa che non hai ancora capito. Ho detto, questo ha detto sta frase qui. Che ma vuol dire? Che cazzo significa? Non lo so. Allora, mentre tu ci pensi, mi metti in difficoltà. Mentre tu ci pensi, noi piazziamo una bella sigletta di cartoni animati. Perché volete che non le abbiamo preparate anche oggi? Cristina Dendovena. Quando torniamo, poi vi leggerò la spiegazione, la consulenza psicoattitudinale di Lobby Frontali al buon Simone Mutella. Sui Casaleggio. Esatto. Lanciamo un contest di quelli che non si vince niente in chat. Che più si può romani, solo perdere per i romani, si può solo perdere per i romani o per i filo romani. Chissà, conosce bene il linguismo romano, la linguazione romana. Allora, si tratta di indovinare il significato e anche l'etimo, è vero, o di suggerirci dei modi di dire che magari si potrebbe non conoscere, tipicamente romani. Allora, però, prima di questo, io chiedo ai nostri amici in chat se ci sanno spiegare in chat il significato dell'espressione idiomica ed idiomatica. Sì, mentre guardi in tombino, sì, mentre corri, guardi in tombino, fa il salto con l'asta. Se ci spiegate che vuol dire, vincete tutta la nostra stima. Ve la scrivo in chat perché posso capire che non è facile. Il Gusella ci ha messo un po' a cercare di capire, poi gliel'abbiamo spiegata. Abbiamo dovuto spiegare perché non è facile, però. Mi sono arreso all'ultimo metro. Ultimo metro, sì. Guarda, la scrivo anche in italiano, così almeno. Con la traduzione di Google Translate. Abbiamo spiegato la tipica frase: ma che te sta mangiando frappa o naso tuo? Esatto. Allora, intanto però il buon grande Lobby Frontali ha indovinato subito. Però intanto diciamo che Lobby ci ha anche fatto la consulenza psicopsichiatrica per il Gusella, che ci dice relativamente al discorso del lapsus di prima, dice di Casaleggio. Esattamente, dice, diciamo che l'alcol non aiuta, ma lui non ha bevuto poco, però, e nemmeno la somiglianza fonologica tra Casaleggio e Casa Monica. Ma attenzione, l'alcol in vino veritas, in alcol, esatto, veritas, esatto. Ci dice che l'alcol è un antagonista, no, è un agonista, non un antagonista, dei neuroni GABAerici che producono il neurotrasmettitore GABA, che ha un effetto inibitorio sui sistemi di controllo prefrontali e quindi le voglie accazzate che sono. Ah, ecco perché allora si dice quanto sei gabbo, no? Oh, non lo so, si dice, no, questa non la conosco, quindi non ti posso aiutare. Allora, per esempio, sai che a Roma si suol dire, mo adesso che va di moda il binge watching davanti a Netflix, questa espressione potrebbe essere anche molto, molto appropriata. Sei talmente grasso che se passi davanti al televisore mentre sto guardando un telefilm mi perdo 3 stagioni. Vabbè, sì, ora che passi sei talmente grande che... Beh, facile, dai. Andiamo su qualcosa di più metaforico. Qualcosa di più sottile, di un po' più creativo. Se uno ti dice, allora questo è molto difficile, attenzione. Se uno ti dice, oh, ma che te sei mangiato il vetro? Ti sei mangiato il vetro? Boh. Che cosa si sta comunicando? Io l'ho fatto, vabbè, adesso ci spieghiamo alcune cose, però non è questo. Oddio, mi vengono in mente delle cose atroci. No, anche tu devi essere molto più fantasioso, devi andare oltre all'interpretazione più banale. Ti sei mangiato il vetro, sei dimagrito perché sei diventato trasparente, non so. Ecco, quasi, cioè, in realtà al davvero? Contrario, nel senso che mica sei trasparente, levati da davanti alla televisione. Ah, ecco, ok. Capito? Sì. Beh dai, però ero sulla strada, eh? Sì, sì, diciamo che hai beccato quantomeno il recondito significato del vetro. Degliotta scende. Beh, questa mi sa che eravamo. Sì, questa me l'avevate spiegata. Piottare vuol dire letteralmente, cioè una piotta è 100, giusto? Quindi andare a piotte vuol dire andare veloce. Piottare, andare a una piotta, sì, andare a 100 all'ora. Beh, ti piotta l'ascella vuol dire ti strasuda l'ascella, ti puzza l'ascella. Esattamente. Cioè, l'ascella sovreccitata. Beh, sì, esatto, sì, sì, bravo. Devo dire che si sta... Invece, per esempio, Piergi ci chiedeva se ti sei mangiato il vetro volesse dire sei pallido. No, abbiamo spiegato che in realtà volesse dire... Senti questa. Vai, spara. Sei come una forchetta nel brodo. Vabbè, sei inutile. Esatto, brava. Vabbè, questa è... Come dire un culo senza un buco. Sei utile come un culo senza un buco, infatti si usa dire anche questa, no? Guardi, ce n'è un'altra tu o... No, questa sì, è modo di dire. Quando guardi una ragazza, ti dici che è un cancello. Che strabucata. No. Andiamo a leggere. Quella ragazza ha dei lineamenti così duri da ricordare le fattezze di un cancello. Un cesso, fondamentalmente. C'era qui un altro tondo, uno che chiamavano Cangello. No, quelle sono le ciammelle a Cangello. No, c'era anche una ragazza. prima chiamata Cancello. La cancelliera. E quindi è bellissimo. Vabbè, eviteremo invece di spiegare busta. Per rispetto a. Vabbè, dai, di qualche altra cosa tu. No, ma perché ce ne sono tante che poi mi dimentico che esistono. Tipo, aprire il cesso per devo liberare il prigioniero. Però, vabbè. Questo è anche un po' razzista, perché in realtà sarebbe il prigioniero nero. Però vabbè, una molto carina, proprio della stima che si può avere nei tuoi confronti. E te voglio bene come una zanzara. Beh, t'ammazzerei, sì, in qualsiasi momento, cioè. Sì, t'ammazzerei, poi te schiatterei. Insomma, io intanto sto cercando altre molto ragioni proprio come il traduttore di Google. Mi sa che questa è un po' recente, però non l'avevo mai letta. E tra l'altro stiamo consultando una vecchia, diciamo, pietra miliare del web romano, che è turbozara.it. Per chi non lo conoscesse, è un sito che è stato aperto praticamente negli anni 90 ed è stato alimentato con queste freddure per tanto tempo, e ancora qualcuno ci si mette a scrivere, insomma. E vabbè, per esempio, questa: te pio con destro che t'ammischio il mocciolo con la saliva. Vediamo se questa la capisci. Vabbè, ti pio col destro, tipo ti mollo un ceffone. Ti mescolo il mocciolo con la saliva. Che ti schiaccio la testa, cioè ti. Sì, ti mischio con notati, sì. Sto leggendo, però ci sono delle cose che modo di dire delle strofette. Spiccia la casa. Devo spiccia a casa. Mi spiccia X. Briatore mi spiccia a casa, proprio la frase topica. Se io proprio per fare proprio l'arrogante, dico a me Briatore mi spiccia a casa, che vuol dire? Amici in chat, coinvolgiamoli, poi la facciamo finita perché ci stiamo annoiando. Cos'è? Tipo mi pulisce casa? Esatto, mi può, dire mi pulisce, sì, casa. Figurati, Briatore, mi fa una pippa. Esatto. Una roba così. Quindi insomma, ecco, questo è tutto slang romano che per la sopravvivenza in ufficio. Soprattutto che ci ascoltate da Roma, suggerite delle cose molto slang da fare, anzi non da insegnare, ma da far imparare a Simone Cusello, perché lui deve essere imparato. Esatto, non sono nato imparato e allora deve essere assolutamente imparato al romano, perché poi tra l'altro adesso una cosa facile, che quando verrà qui, basta che le cose che avrai imparato ci metti lo finale, un po' come metti la S sullo spagnolo, quindi, hai ragione, no, hai ragione, non funziona, però più o meno dai. Vabbè dai, andiamo avanti, perché cioè, alla fine queste cose romane si sono belle, ma poi la gente ci ascolta da tutto il mondo, quindi alla fine... Da tutto il mondo, tutto il condominio ci ascoltano. C'era il motivo per cui ho preso il pullman, che volevo spiegare. Che una mattina ho preso questo pullman, che vabbè insomma ha già detto che era un po' scadente. Ma poi l'hai rimesso a posto? Ma poi l'hai rimesso a posto? Sì, perché sennò veramente rimaneva veramente male. L'ho preso perché avevo sentito un rumorino alla macchina, macchina che d'altro è partita da Milano perfetta, poteva essere sì. Bellissimo. Che era partita da Milano, uno splendore, era veramente perfetta, è arrivata qua a botte, buche della strada, caldo torrido che mi ha fatto partire tutte le vende, vabbè. Vabbè, quello purtroppo è al di là del contesto, insomma, ha fatto un po' caldino quest'estate. Fatto sta che l'ho portata da questo meccanico che ho cercato su Google, perfetto. A Roma. Vabbè. A posto! Dove la devo trovare? A Milano. Da Gigi Ersola, dove sei andato? Posso fare il nome? Perché non ho una testimonianza proprio bellissima, non vorrei. No, allora dai, non diciamo. Ho cercato su Google uno con delle recensioni buone, 5 stelle, questo qua perfetto. Ecco, lo sapevo. 5 stelle, a me 4 stelle più una. E a 20 metri da casa veramente la potevo portare anche spingendola. Esatto. Per cui sono andato lì, recensioni ottime, vicinissimo a casa, col parcheggio loro, quindi... Caffè pagato al primo di due che indovina, chi è che ha appena detto in chat? Sti cazzi! Chi poteva essere? Buonasera Simone! E vabbè, l'ho lasciata lì, per cui sono andato in pullman. Differenza tra sti cazzi e sto cazzo? Questo abbiamo fatto. Allora, questa qua in realtà la sapevo. A casa la e sti cazzi vuol dire non me ne frega niente. Cioè vuol dire sti cazzi non ce li metti. Sì, sì. Sto cazzo è... cioè per dire... Non so, sai chi ti saluta sto cazzo? No, sto cazzo è un'espressione di stupore normalmente. Può essere positivo o negativo, tipo che ne so... Oh, cioè se tu vuoi dire un po' come me coglione. Esatto. Me coglione vuol dire mica mi prendi in giro, cioè no, è molto. Me coglione vuol dire ammazza, vuol dire mazza, sì. Stupido. Mi prendi in giro nel senso ma che davvero? Lì quello è mi coglioni, sarebbe mi stai coglionando, sì, è vero. Me coglione è come dire i miei testi, vuol dire ammazza quanto mi è stupito. Però perché sono grossi, no? Quindi devi dare. Sì, ma fai in realtà poi invece sto cazzo può essere anche stupore onesto, cioè stupore sincero, di ammazza sto... mentre invece lo sto cazzo che dici tu è quella della supercazzola, cioè nel senso poi ti prego, sai chi ti saluta? Sto cazzo, guardi, quella è un'altra interpretazione ancora. Ok. Dice Simone Pizzi che gliel'ho insegnato io, sì, quindi te l'ha spiegato Simone, Alta Accademia della Crusca. Però vedi che c'ha dei buchi, niente, bisogna... L'Accademia della Pucchiacca. Allora, ci stavi spiegando questo meccanico. Attenzione, la faccio breve, l'ho lasciata lì perché c'era probabilmente un rumorino a una sospensione. Così faceva. Provato a togliere la donna. Ho provato ma lo facevo ancora, quindi era da portare. Il problema era qualcosa di strano. E l'ho portata lì quindi per questo rumore alla sospensione, ho detto fammi anche un controllo, non la faccio guardare da un po'. Fammi un controllo. Mai dire mi chiama, lo fai tu. Mi chiama. Tra l'altro vabbè, devo dirlo io che sulla macchina ho la targata Milano, quindi Milano con prima al verbo non si può dire perché guardami Cioè, esatto, sì. Con la targa, con la dicitura Milano, ecco. Mm-hmm. E capirai, ah, è arrivato il milanese. Esatto. Ah, mi sì, chiama sì. E ah, c'è il radiatore bucato. Oh, cioè, perde acqua, l'abbiamo riempito. Qua, perde qua, mette in qua, vedi, c'è proprio il buco esatto del ma cacciavite. Ma come, no, l'ho fatto io, certo. E bisogna cambiare il radiatore, già che ci siamo cambiamo il liquido. Poi vabbè, c'è anche una valvolina, una roba che in realtà sapevo già di dover cambiare. E il rumorino, sia sì, una roba di sospensione. E che si chiama il radiatore, questa valvolina, siamo sui 530 euro. Cioè valvolina. Ma la valvolina che costa tanto, il radiatore saranno 30 euro. Beh, 30 sì. Euro. Beh, la valvolina in realtà lui mi ha detto 130 euro, ma io in realtà la monterei anche da 50 euro. Ma poi, cioè, anche da 5 la valvolina. Non è che, cioè, mi deve essere detto 530 la distribuzione tutta completa. Lo so, più o meno il prezzo è 4-500. E già siamo scesi a 4-500, attenzione. No, la distribuzione 4-500. Ah, sì. Ma avesse detto 500 per la distribuzione, ci avrei anche creduto. Ah, ecco, tra l'altro, c'è la cinghia un po' vecchia, l'ho fatta 3 anni fa, 20.000 km, quindi chi se ne intende anche un minimo lo sa che la cinghia dura 5 anni, 80.000 km, quindi 100.000 sì, macchina, sì, beh, certo. Ma aspetta, la cinghia della distribuzione o dei servizi? Ti ha detto distribuzione. Vabbè. Distribuzione che ho fatto 3 anni fa, appunto, quando ho preso la macchina. Vabbè, fatto sta che dopo una settimana che stanno chiuso per le ferie, beh sì, ci risentiamo. Sì, ti chiamo io, Sì, sì, tu aspetta la mia chiamata, che no, sicuramente ti chiamo. Fatto sta che dopo quasi 2 mesi il radiatore è ancora perfetto, l'acqua non ho messo ovviamente un goccio ed è ancora lì, che strano, si sarà tappato da solo il buco. Quindi il buco non te l'ha fatto davvero, l'ha solo fatto. Stai andando in giro senza acqua da 2 mesi, no? Sì. In realtà non c'è più acqua, tutto lì. No, lo controllo tutti i giorni perché comunque la insomma è una cosa seria, una cosa importante. Ma dai, ci ho provato. Non ci sono altri modi per dirlo, ci ho provato veramente. Ce l'ho io il milanese, giusto? Questo c'è soldi, viene qui a rubarci il lavoro. Esatto, ho votato Salvini, ma io sono dei 5 Stelle. Poi ha scoperto di essere alleato del governo e diventa del PD e si è ammazzato. Esatto. Quindi già partiamo bene con questa bella esperienza. Un'altra esperienza, tra l'altro, al ristorante sotto casa, c'eri anche tu, sì, Marco. Sì, anche io, però perché un po' Simone ti ha lasciato perdere. Sì, vabbè. Allora, diciamo è. Io la voglio sapere perché io non c'ero. Beh, sì, adesso la raccontiamo. Insomma. Diciamo siamo rimasti un po' scottati, però neanche così tanto. Prendi, siamo andati fuori a mangiare a questo ristorante che. Siamo andati a mangiare una pizza. No, no, non era la pizza, era il pesce. No, era pizza. Era una pizza di pesce. All'inizio era pizza. Ah, ok, sì. Siamo usciti dicendo andiamo a mangiare la pizza. Una pizza. Sì. Poi arriviamo a questo ristorante, vabbè, cioè il qui fanno la pizza buona, qui il ragazzo milanese dice "Ah, fanno la pizza buona", quindi andiamo a mangiare la pizza buona. Arriva l'omino, dice guarda qua, c'ho le delline, non poche, però c'ho tanto il pesce fresco appena appena pescato. La nostra pesce fresco, anche i pizzi, poi, cioè, però a me è un po'. No, anche perché questo è un ristorante, devo dire, buono, c'ero già stato e io mi sono fidato purtroppo del cameriere. Vabbè, fatto sta che abbiamo mangiato, devo dire, tanto e anche bene. Va bene, soprattutto giorno dopo siamo andati a cagare a spruzzo. Sì. È importante perché quando mangi il pesce c'è il rischio sì, che sì, magari sì. Un bel antipastino di fritti, verdurine, cosa c'erano, gli supplì. Sì. Bruschette, vero, spaghetti con le cozze, con le telline. Tante telline. Scusa, intanto salutiamo Michela De Paola che ci ha raggiunto anche in chat e che dice: Giusi, ti avevo detto di non andare da solo da Meccanici di Roma. Cioè Giusi, no Giusi, scusa. Ma l'ho portata, ero lì da 2-3 settimane, quindi. Beh, insomma, però tornando, insomma, andiamo al ristorante. Questo ristorante. Per cui devo dire abbiamo mangiato bene, anche abbondante, abbiamo fatto fatica a finire tutto e c'erano un bel po' spelati, Vabbè, a parte che la prima volta che sono andato in questo ristorante, conto di 70 euro, Però se pagate in contanti facciamo 50. Cioè, vabbè, no. Beh, però insomma ti guardano in faccia, dai, ma come si fa? Cioè, vabbè. Che, okay. Cioè, avesse detto 65, 60. Vabbè, nel vabbè. Senso che se non te devo fare la ricevuta non paghi. Vabbè, vabbè, certo, ovviamente. Cioè, una mano lava l'altra, tutti beh, sì. Lavano via la... Sì. Mm. Per cui abbiamo speso 35 a testa. Non è neanche una cifra. Per aver mangiato pesce, no, tra l'altro ho anche un altro. No, un'altra se il pesce è buono, ci sta, dai. Devo dire, abbiamo speso quei 5, esagerando, 10 euro di troppo. Però secondo me comunque abbiamo mangiato bene. Però diciamo anche lì qualche cosina se lo sono un po'. Sì, ma l'aneddoto divertente qual è? Cioè. Aneddoto divertente. Cioè, perché ci stai raccontando questa cosa come fosse una perché cosa. Perché io stavo a cercare memorabile. Perché magari mi è sfuggito qualcosa di divertente. Però niente. Divertente. No. Ah, però c'è Michela che non trova parcheggio. Ah, strano, a Roma non succede mai. No, ma c'erano dei parcheggi. Perché lei è arrivata davanti al. Ah, nostro. Sì, è vero. È arrivata davanti al ristorante. Noi stavamo sotto il terrazzo. Mi ero dimenticato. Dicevamo, parcheggia qui. Sui sotto. Qui sotto, parcheggia qui. Ma lei guardava e poi andava e faceva un giro. Poi in lontananza si era messa in mezzo a un incrocio e faceva, c'è il posto. Con i segnali di fumo, i led lumino, le strisce led. E poi ha deciso di parcheggiare in mezzo a un incrocio. In mezzo a un incrocio, fermando tutto il traffico, andando in retromarcia in questa via contromano. Non capisco, Simone, però ci dice, quel posto è Mario lo Zozzone, cioè? Si chiama proprio così? Mario lo Zozzone, no? No. No, no. Niente, cos'è la smettisce? Quadrilatero, com'è che era... Al quadraro. Boh. Non so. Vabbè. Boh, vabbè. Vabbè, insomma, ragazzi, ecco, tra l'altro c'era anche sta cosa, il ristorante è in via Dovidio. E Michela l'ho mandata in via Donofrio. Ah, vabbè, che vado ovviamente Roma Sud contro Roma Nord, tipo, nel senso da un'altra parte, che a Roma sbagli una via 80 km, sì, che, infatti devi stare attento. Infatti c'è questa via Chiarini che già i miei erano venuti a trovarmi a Roma. Sì, sì, abito in via Chiarini. Hanno sbagliato via Chiarini. Quindi ci ha messo mezz'ora perché era dall'altra parte. E ha detto ancora bene. Infatti via Donofrio ho detto che sinceramente buono, non ci ho neanche pensato, non me ne sono reso conto. Ah sì sì, sono lì 5 minuti. Oh, dopo mezz'ora non c'è ancora. Ma com'è che si chiama la via? Via Dovidio. Ma è dall'altra parte dove sono io. Bella, cui... gran colpone di scena. E lì insomma. Poi c'era il parcheggio bello. E per te poi mangiavamo con i maiali. Sì. Oh, tocco arriva. Ho provato a arrivare. Sì, sì, va bene. Vabbè, insomma. Sono stato anche alla parolaccia di Roma, anche lì, no, lì veramente. Lì la parolaccia l'ho urlata io perché. Vabbè, ma lì, cioè, lì è proprio a farsi odiare. Cioè... Allora, lì. Lì ci andassero i turisti benestanti a farsi spennare. Perché... Devo dire, non me l'aspettavo minimamente, nelle recensioni non c'era neanche scritto. Abbiamo speso. No. Chi l'avrebbe mai detto? Ma abbiamo speso. Non sarebbe mai creso. Sì. Abbiamo speso in due, completamente a sorpresa, 100 euro. In due? Testa? No, in due. Cioè 50 euro a testa per mangiare, e poi 15 euro di cibo tutto e 30 euro esatto, di intrattenimento. Okay, sì, devo dire, anche lì abbiamo mangiato bene, tutto buono. Però 50 euro. E lì lo show. C'è da dire, esatto. Show. Secondo me lì c'è comunque un meccanismo da tenere in considerazione. Cioè lì tu entri alle 8 e te ne vai alle 10, alle 11. Ho capito. Perché? Ma... perché c'è lo spettacolo. Tu hai la testa di cazzo, siedi. Sì, sì, sì. Grazie. Però se ne dici una tu, so cavoli, perché te le segnano. No. No, meno male. No, devo dire, mi sono divertito un sacco. Cioè, prendevano in giro tutti in modo comunque non, diciamo, personale. In modo, devo dire, molto divertente, senza far sentire le persone a disagio. È molto divertente, però secondo me c'è questo meccanismo per cui tu entri e stai dentro 2-3 ore due o tre ore e praticamente non fai più entrare nessuno, cioè c'è poco il ricircolo. Ma no? Vedo quando con un giocatore di tavoli dai, per cui una serata che gli frega, scusa, perché cucinare il doppio delle scorte alimentari quando a botte di parolacce ti faccio pagare il triplo direttamente? Esatto, cioè comunque dicono comunque il posto è piccolo, sarà un 50 Simone persone. Simone a dormire, gli auguriamo la buonanotte. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte, grazie. Giustamente dice Michela, e non posso che confermare, dice Simone, dobbiamo andare al ghetto, con 50 euro mangi tutta Roma senza show. Al ghetto, che il ghetto ebraico è proprio il senza cuore della cucina romana popolare. Ho capito. Sì. Mangi tutta Roma senza show. Senza show, sì, senza show. Senza sconsigliabile. Sì, insomma. No, non li fai incazzare, che sono suscettibili, ancora nel piatto. No, mamma mia, poi ancora in faccia, no? Mamma mia. Beh, insomma, dicevi, scusa Simone, continua avanti. No, beh, in realtà avevo quasi finito. Cioè, una bella serata, divertente. Guarda, però la fai una volta ogni tanto. Ti portiamo alla villetta e ti ci lasciamo, ovviamente. Sì, no, io non c'entro. Vai tranquillo, mangi e poi ci fai sapere. E poi ci fai sapere dopo quanti anni dei piatti lavati te liberano, perché sono di persone che hanno strappato la propria camicetta, sono diventati verdi, hanno cominciato a massacrare per salvarti. Sì, vabbè. Sì, è un ristorante di pesce qui a Monterotondo che è un tantinello esoso. Poi perché da bravo a cucinare, però insomma, stai a Monterotondo, stai comunque sul cavalcavia della ferrovia, magari forse è il caso che te dai una regolata. Però vabbè, detto questo, insomma, io sono dell'idea che il pesce, ci sono dei posti specifici per andare a mangiare il pesce. A Roma, per carità, ce ne sono anche tanti. Proprio al ghetto c'è, forse si chiama da Franco al Vicoletto, che è praticamente al limitare di San Lorenzo, che fa un pesce molto molto buono. È proprio una trattoria. San Lorenzo, Cusello, tu devi andare a San Lorenzo. Ma San Lorenzo devi sono stato. Posso, lo faccio. Sono Milano. Anche le colonne. Le colonne di San Lorenzo? Certo. Non è quelle che conosco, ma comunque le colonne di San Lorenzo mancano anche a me. Poi vabbè, ma insomma. Sono vicino al Duomo. Più o meno al Duomo. No, sono a Milano. Ah, ecco, aspetta, quale Duomo? No, ero rimasto un attimo interdetto. Sì, è spuntato ieri. San Lorenzo è il quartiere degli universitari. Sì, o San Lorenzo, meglio, il quartiere dei calabresi, più o meno presente ormai. Dove... Però insomma, lì ci sono un sacco di localini di vario tipo, piacevoli, dove si spende poco. Poco? Poi dipende, sì, in realtà relativamente poco. Una volta forse quando si spende. In effetti sì, però io non mi voglio arrendere al fatto che il tempo passa, ecco. Vabbè ragazzi, io che vi dico, noi ovviamente dovremo fare dei tour enogastronomici, dovremo portare sicuramente il buon Simone in posti particolari, però adesso, come dire, abbiamo fatto questa puntata molto molto troppo un pelino romana. Cominciamo ad addestrare, adesso torniamo non solo nel romano ma nel territorio retino, cominciamo ad addestrare Simone. A chi si fio? Ah, qua l'indigeno. Chi è tuo figlio? Una risposta ce l'avrei, però. Premesso che è una cosa: a Monterotondo, che è qui dove noi abbiamo la sede della radio, siamo in provincia di Roma, ma in realtà siamo veramente in un purpurri multiregionale, perché fondamentalmente questi sono quei. La provincia romana è stata formata da gruppi di migranti interni che dalle regioni confinanti negli anni 50-60 del dopoguerra venivano a lavorare. Che allora, che Sicilia. Succede? Monterotondo è praticamente suddivisa in quartieri. Abbiamo il quartiere abruzzese che si chiama Spinelli, abbiamo il quartiere coi siciliani, il quartiere coi campani, abbiamo il quartiere, ne abbiamo tanti. Quindi fondamentalmente gli aretini, i monterotondesi veri, sono pochi. Però quelli che ci sono li riconosci, perché quando ti squadrano, quelli di una certa età, per sapere chi sei, ti fanno la domanda ferale: a chi si fio? Chi è tu? Chi si fio? E tu devi rispondere. Che cosa rispondi? Non penso si possa dire, cioè sarebbe brutto. Non devi insultare la gente. No, che cazzo. No, devi dare una risposta che sia comunque in qualche modo diplomatica. Quindi, io sono figlio di mio padre. Ah, ecco, ok, pensavo di mia madre che... No, dimmi, sono figlio di Vincenzo. Esatto, devi dare un nome, poi di Mario, ma tu dici, è meglio, sei figlio di Mario, ma è meglio chi? Ah, ma quindi non è un modo di dire... Il cugino di Serrecchia! no, di preso no. Un figlio denna. Loro vogliono sapere di che razza sei. Quindi, pensavo fosse uno di quei trucchetti. No. Ma di che Mario chi? Tu, ma Mario, quello della pescheria, pescheria. Quello di Scalini, butto spara qualche quello del negozio di barche di Monterotondo. No, ci dice Michela, dici che sei figlio dei Pizzi. Perché? Non so, dice Michela. Pizzi Junior sono. Pizzino. No, vabbè, in realtà Pizzetto. Poi per esempio una cosa che mi piace molto è un anatema locale che noi ogni tanto ripeschiamo proprio tra qui tra amici quando proprio ti voglio dire una cosa cattiva. Te pozzi murilu porco. Ce lu tenghi, perché c'è papà, c'è anche la doppia offesa. Nel senso, non è detto tu te lo possa permettere, maiale, sì, quando ce l'hai, te possa morire, che è proprio la, per un proletario di quegli anni era proprio la morte, cioè te muore il maiale. Beh, ti muore la fonte di guadagno, diciamo, no? Te pozzi muri lu porco, sì, ce lu tenghi. Ragazzi, questo è un classicone. Come da queste parti si augurano invece i traslochi se vuoi mettere una persona. Perché? Aspetta, dopo, poi ne riparliamo. Poi sì, magari in un'altra puntata. No, invece in chat stanno adesso rievocando la nostalgia milanese, perché parlando praticamente Pier G, Davide Gatti e Rizzard in qualche modo nel discorso su Milano è venuto fuori la zona della Darsena. E quindi adesso sono tutti un po' la nostalgia. Ah, che bella la Darsena. Io ci sono anche stato sulla Darsena. Scusate, sui Navigli qualche volta, insomma. E dice in un bar alla Darsena l'anno scorso ho trovato Moratti ubriaco, dice Pier G, ma che Moratti padre o Moratti junior? Belle storie. Perché Moratti non ubriaco penso non l'averlo mai contemplato, cioè o perlomeno anche quando è sobrio non è che sia molto, come dire, molto presente. Comunque belle storie, belle storie. Tra l'altro c'è anche una cosa particolare di Roma con la macchina, cioè io da Milano, io so che se devo andare in centro a Milano con la macchina so già che non lo farò mai e poi mai neanche. E vale se... anche per Roma se sei curvo. Beh, ma perché a Milano proprio non ci puoi andare. Ti sgamano con le telecamere, ti fanno parcheggi allora gratuiti a non finire. A Roma devo dire io ho parcheggiato a 50 metri dal Pantheon, a 50 metri da Piazza del Popolo, a 100 metri, no, sì, lì a 100 metri dal Colosseo. A Milano sta cosa non la puoi fare, cioè a Milano perché con la macchina non, però, allora, perché non c'è il Colosseo a Milano, giustamente. Io giustamente ho fatto questa differenza con le poche scorribande a Milano, sempre in macchina. A Milano quando tu arrivi nella zona centrale a un chilometro di distanza vedi cartelli grandi come quelli di uno stadio. Oh, tra un po' arriva la ZTL, eh. Oh, guarda che qui tra un po' c'è la ZTL. Cioè tu non ti puoi sbagliare. A Roma ti inculano, guarda che è appena passato la ZTL, capito? Quella è la differenza. Io evito di prendere la macchina perché non conosco le ZTL di Roma, proprio perché sono segnalate appositamente per quando hai capito che senza ZTL non puoi più tornare indietro. È troppo bello. È troppo bello. Quindi quello, consiglio se vai nella zona del Testaccio, questi posti qua, soprattutto nel fine settimana per la mobile eccetera, attento perché quando capisci che stai in zona ZTL sei già fottuto. Bene, e ricordati che la tangenziale ha una certa che è mezzanotte mi pare chiude, e se ti fai il tratto di tangenziale, cioè? La tangenziale nel tratto di San Giovanni dopo una certa ora. San Giovanni cos'è? Sud? Dipende dal centro, comunque la parte più centrale tangenziale, okay. Dopo le mi pare 11:30 mezzanotte nei giorni lavorativi non la puoi fare per motivi di, diciamo, di rumore, e quindi se la percorri ti si levano come un chinotto. Quindi quello che hai guadagnato fino adesso, esatto, probabilmente. Oh, è arrivata la Lullaby. Ciao Lullaby. Beh, ciao. Non penso di averla mai fatta. Bravo. Meglio così. E nel caso tu ricorda questa. Ma per caso è quella di più o meno in zona Tiburtina? Però se la prendi dalla Tiburtina verso fuori ancora la puoi fare. Non è la parte interdetta di notte. No, allora non penso proprio di averla mai fatta. I disegnerati che ci sono. Molto cazzolica dei macchi. Tipo scritte su carta, no, a mano. Ci sono i cartelli luminosi, però insomma ci devi stare un po' attento. Ecco. Salute. Sì. Faccio dei rumori strani. Comunque, belle notizie che arrivano da tutto il mondo. Perché è bello parlare della quotidianità dei piccoli centri urbani come di quelli grandi. Come dire, cioè, è stato un miracolo che io sento da fervente fedele, come tutti voi sapete, sono uno che va a messa tutte le domeniche, anche più di una volta al giorno, a fregarti le queste? No. Più domenica alla settimana, domenica, cioè, sì. Due o tre domeniche alla settimana. Sì, tu ci scherzi, ma una volta qui quando hanno fatto il mercato dell'antiquariato hanno il comune ha speso i soldi per gli striscioni pubblicitari e c'era scritto testualmente tutti i sabati della settimana, vengino signori, vengino. Ci hanno speso i soldi. Esatto. C'è stato questo miracolo miracoloso che è successo a Padova, dove praticamente c'è un marito sterile, ok, uomo, come dire. Miracolo. È miracolo. Miracolo di Sant'Antonio. Che c'è di strano? Evidentemente l'ho. È normalissimo. Cioè, apparentemente hanno presentato questo caso alla Basilica, appunto perché si è riconosciuto come ufficiale miracolo di questa coppia. Lui non poteva avere figli, ma lei è rimasta lo stesso. Eh sì, chiaramente un miracolo. Chiaramente un miracolo divino, cioè, quindi faranno l'esame del DNA, mi sembra un po' questa Antonio, cioè, mi sembra un po' questa vignetta che ho visto negli ultimi giorni su Facebook, fatta con i Lego, vabbè, questa pagina si chiama credo Legolize. C'è la ragazzina, mamma, io esco. Potrebbe essere tuo padre, ma sai, l'età è soltanto una questione mentale. Non è quello che intendevo. Comunque, vedete, il bambino è nato, è stato chiamato Giovanni, non capisco perché. Perché no? Antonio l'avrei chiamato, ma perché Giovanni? Cioè, lo chiami come il padre, Antonio Junior? No, che problema c'è? Ma tu devi essere due volte, ho fatto il miracolo, no? Cioè, non riesco a capire questa cosa. Comunque, sono belle queste storie di miracoli dove le donne rimangono incinte da sole. Cioè, ragazzi, non come quella cinese della settimana scorsa, tu non l'hai ascoltata? No. In Cina la settimana scorsa abbiamo scoperto il caso di quest'altra coppia che proprio niente, malgrado tutti i tentativi, tutte le peripezie, non riuscivano a restare incinta a lei, no? Allora il medico fa tutto un giro di analisi, controlla, fa la conta spermatica a lui, il test della fertilità, tutto a posto. C'è qualcosa, tu certo punto sembra tutto regolare. Senti, scusate, ma mi fate capire, ma cioè, allora cerca di indagare sulle dinamiche di coppia. E niente, lei praticamente dice no, noi ci proviamo tutte le volte, e poi mi fa sempre male, però niente, aspetta, perché ti fa male, quindi c'è deve essere un'infezione, qualche vediamo. Cosa. Mi faccia controllare. Esatto, ma tu sei la vergine. Da cui potresti dedurre cos'è che gli faceva male. Esatto, e poi che succede. Anche gli ha regalato un libro di educazione sessuale e ha detto: guarda, ragazzi, dovete ricominciare, non ci avete capito niente. Se fate ricominciate da capo, il marito, porco sì. Un po' del tipo mi è venuto in bocca, rimarrò incinta, non so. Intanto ci raccontava, allora, premessa, in chat, come al solito nella seconda metà della puntata, in chat cominciano a parlare per conto loro, noi come se non ci fossimo. Oh, vabbè, ovviamente. Allora, la cosa migliore quella. Siamo noi che dobbiamo ascoltare loro. Sì, esatto, ma infatti adesso noi riferiamo di questi Amarcord. In pratica abbiamo il racconto di Pier G che alla Darsena ha visto Moratti ubriaco che fumava in un bar. Risponde invece Michela con un aneddoto che dovrebbe conoscere anche Marco Gualdi, di quando lei alla stazione Termini ha visto il Califfo, che per gli amici è Franco Califano, che sbrattava. E nel frattempo invece ci racconta anche Lobby Frontale, dice: anni fa con gli amici prendevamo l'abitudine di andare a Napoli in macchina il sabato sera, quando da poco era stato eletto De Magistris a sindaco. Strade del centro per anni liberamente percorribili, da una settimana all'altra si tramutarono in ZTL. Ovviamente senza troppa pubblicità, dopo la terza multa ci togliemmo il vizio di andare a Napoli. Questa è un po' una storia triste. Finisce qui la storia. Tristissima. È molto triste, sì. Meglio tornare a pensare al Califfo che sbratta. Ma sì, sai? Assolutamente, era bellissimo. Se ne andava con due transoni, è bellissimo. Buon'anima del Califfo, tra l'altro. Insomma, uno che dalla vita non si è fatto proprio manca niente, c'è da dire. Sarà morto, ma non penso che sia morto infelice. Vabbè, insomma, tiriamo un po' le redini di questa puntata. Sono le 22:30, no? Abbiamo fatto una puntata. Tiriamo le cuoie della puntata. Allora, io però ho il dovere di farvi una domanda a chiosa e a chiusura della puntata. Comincio da Simone. Simone, comprerai il nuovo iPhone? No, in realtà non ho mai comprato uno. Non ti vergogni. Marco, comprerai il nuovo iPhone? Che dovrei? Perché non dovresti? Perché mi compro Xiaomi E vaffanculo. E vaffanculo. Perché vaffanculo? E questa è un'altra cosa che mi sembra che Simone abbia raccontato. Non so se Simone l'ha raccontata. Però gli lasceremo ovviamente l'onere e l'onore di raccontarla. E niente, noi a questo punto mettiamo un po' di ordine alle cose, ci cominciamo a dare un appuntamento un pochino più aggiustatino, un pochino più registratino con la nuova stagione di Ottimisti genericamente mortificati, auspicabilmente dalla prossima settimana. Non ci sono altri keynote, vero, in ballo, ormai l'hanno presentati, se ne parlerà l'anno prossimo, quindi riprendiamo la programmazione abituale di Runtime. E vi ricordiamo, come sempre, che se ci voleste dare una mano a far sì che questi bei programmi cialtroni abbiano un futuro, potrete scoprire come farlo andando su www.runtimeradio.it/anche io. Ci volete fare una donazione con Patreon anche di 1 euro al mese, sarebbe veramente ben accetta. Ci volete fare una donazione una tantum con PayPal, va bene anche quello. Volete venirci a trovare in studio, va benissimo. Se bussate coi piedi e ci portate 4 dolcetti, una birretta, eccetera, ci fate ancora più felici. Insomma, noi siamo sempre qua, vi aspettiamo. L'appuntamento con OGM è a mercoledì prossimo. Io saluto i miei commensali, visto che oggi più che altro abbiamo sgranocchiato. Simone Cusella. Ciao a tutti. Marco Gualdi. Ciao, volevo solo dirvi che oggi pomeriggio hanno dovuto evacuare Starbucks a Milano per un allarme antincendio scattato a cazzo di cane. Cominciamo qualcuno bene. Che ha dato fuoco alla scoreggia e sono impazziti. Bisognerà tutti fare uno speciale su sta storia, perché ovviamente c'è già chi si è scagliato contro Starbucks come se fosse uno scandalo, che il come, demonio, come se il caffè fosse un prodotto veramente di origine italiana, e quindi dobbiamo difendere la titolarità. Il caffè è nato in Italia, le coltivazioni del caffè. Esatto, siamo pieni così, certo, di caffè. Ovviamente. Vabbè, saluto anche il buon Simone Pizzi, che era con noi solo spiritualmente oggi, ma che tornerà in formazione. È sempre spirituale dentro di noi. Detta così si potrebbe però attenzione, attenzione, perché il Papa Francesco dice che c'è l'ombra del demonio dietro al caso Vigano. Chi? Il demonio. No, chi vive, cioè, chi è una coda davanti, una dietro, no, Mandingo. Vabbè, e vi saluta anche il sottoscritto Walter Spano. Vi diamo ancora un altro appuntamento alla prossima settimana. Noi ci andiamo a fare un'altra birra, quindi buonanotte. Grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato in e chat, Rizzard, Virgilio, Obi Frontali, Michela De Paola, Lallaba e la Quala, Simone Pizzi, Davide Gatti, Lorenzo, Enrico, Pier G, non spero di non aver stato dimenticato nessuno. E sto cazzo è quello sempre, quello è sempre con noi. Ragazzi, un abbraccione e buonanotte. Ciao, ci vediamo settimana prossima, forse non si sa.